Covid-19, virus diabolico o virus cinese? Errore di Pechino o tracotanza americana? Ecco l'alba di una nuova guerra fredda. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. We are doing serious investigations because we believe it could have been stopped at the source, it could have been stopped quickly and it wouldn't have spread all over the world. For the Asian American community, we've seen all kinds of hurtful rhetoric, insults, dirty looks and even assaults. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Anche quest'oggi qui a Nessun Luogo Lontano ruotiamo il mappamondo per scoprire quanto il globo sia sempre più piccolo e sempre più interconnesso. Per farlo c'è tutta la squadra di Nessun Luogo, Antonio Tali, Ilaria Siesana, Valentina Ternullo e Andrea Macchioni. Quest'oggi in assistenza Luca Cremonese e in console ritroviamo Filippo Aureggi. 349-238-6666 è il numero per SMS e WhatsApp, per domande, per commenti e perché no, anche critiche, sempre nell'alveo della buona educazione, lo ricordo, non ammetto turpiloquio, offese gratuite, sessismo e razzismo. Per il resto liberissimi di criticare i contenuti di questa trasmissione. Lo potete fare anche attraverso i social, Facebook, Nessun Luogo Lontano, trattino Radio 24, Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Dopo la querella in salsa di intelligence sulla fuga del virus dal laboratorio, le tensioni tra Stati Uniti e Cina hanno raggiunto livelli allarmanti. Forse da piazza Tiananmen non erano così gelidi i rapporti tra le due superpotenze. È evidente che Washington e Pechino sono destinate a un confronto serrato per l'egemonia globale. Ma su quali campi si giocherà questa partita? Beh, forse tutti, dall'high tech alla cyber war, dalle forze armate all'economia, dal soft power ai sondaggi di gradimento, fino, evidentemente, alla sanità. Ma anche i quadranti geografici sono importanti. L'Africa, l'America Latina, ne parlavamo proprio ieri, ma anche il Mar Cinese meridionale. Sarà guerra sì, forse totale, ma chi vincerà? Su questo aspetto i vostri commenti, 349-238-6666. Filippo, la prima cosa da fare però è sfogliare i nostri dossier. Il primo ci porta nelle Filippine. La principale emittente radiotelevisiva del paese, la ABS-CBN, ha dovuto interrompere la maggior parte delle proprie trasmissioni. La licenza, infatti, era scaduta lunedì scorso, ma l'emittente sperava di poter continuare a trasmettere il proprio lavoro grazie a un permesso temporaneo. Martedì l'autorità regolatrice dei mezzi di informazione ha dato parere contrario. Fin qua, direte voi, una normalissima storia di gangli burocratici dall'altra parte del mondo. Se non fosse che i giornalisti di questa emittente televisiva erano stati in passato molto critici con il presidente filippino Rodrigo Duterte e avevano condotto soprattutto diverse inchieste su quella che è stata uno dei grandi cavalli di battaglia, una gigantesca bandiera fatta sventolare per mesi, la famosa o meglio famigerata guerra alla droga, che ha provocato la morte di migliaia di persone, una serie di mesi di intensissime operazioni, molto spesso uccisioni extragiudiziali, bande della morte che scorrazzavano, pare, qualcuno sussurrava, pagate dallo stesso Duterte, ma in buona sostanza venivano arrestati e spesso uccisi anche vittime innocenti. Inoltre, durante la campagna elettorale, quella del 2016 che riconfermò Duterte, la stessa emittente si era addirittura rifiutata di trasmettere i discorsi del candidato. Duterte aveva già dichiarato che non avrebbe permesso il rinnovo delle licenze e così ha fatto. L'allarme è stato rilanciato fra gli altri da Amnesty International. In Polonia, torniamo in un paese, in un quadrante molto più vicino all'Italia. Domenica 10 maggio 30 milioni di elettori polacchi sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente. Forse no però, perché in una situazione normale 250.000 persone sarebbero già state formate, seggi elettorali già pronti, candidati evidentemente impegnati nelle ultime frenetiche attività elettorali e invece mancano solo 4 giorni alle presidenziali e sostanzialmente mancano istruzioni chiare su addirittura come svolgere questa tornata elettorale in condizioni di sicurezza. In Polonia ci sono 14.000 casi di coronavirus e i morti sono 716. Il vice primo ministro Jacek Sasin ha detto: dobbiamo dire chiaramente che sarà molto difficile rispettare la data del 10 maggio. Secondo un'indiscrezione riportata dal sito politico.e, autorevole organo di informazione che sulle cose europee ne sa e parecchio, si starebbe valutando l'ipotesi di spostare la data dell'appuntamento elettorale di qualche giorno, ma in realtà a leggere la legge, perdonate la ripetizione polacca, non vi sarebbe proprio alcun fondamento legislativo per poter rinviare di pochi giorni questo appuntamento elettorale. L'altra opzione, che è stata caldeggiata anche dall'attuale presidente Duda, potrebbe essere il voto via posta, però per il momento non c'è la possibilità, soprattutto per i tempi così ristretti, di andare a cambiare il sistema di votazione. Evidentemente Duda spinge a che si voti nel più breve tempo possibile per andare a consolidare, capitalizzare il grande consenso. Vedremo se la legge polacca e l'opposizione glielo consentirà. Arrivano i primi messaggi al 349-238-6666, vedo che anche questo tema particolarmente divisivo infiamma gli animi elementi, Stati Uniti-Cina, questo braccio di ferro che sta facendo ripiombare le relazioni tra i due paesi, ha probabilmente una temperatura gelida, gelidissima, forse una nuova guerra fredda, mai così fredde le relazioni addirittura da piazza Tiananmen. Andiamo in un altro quadrante prima di affrontare questo argomento, qui a nessun luogo è lontano. Sono arrivati peraltro un po' di messaggi poco prima, pochi istanti prima che andassimo in onda. C'è un ascoltatore, non posso evidentemente verificare l'attendibilità di questo messaggio, che scrive per quanto riguarda l'invasione del Venezuela, ricordate l'abbiamo raccontata ieri con dovizia di particolari nonostante la fitta nebbia nella quale è avvolta, dice: nessun professionista del settore militare sbarcherebbe a Macuto, dove si troverebbe immediatamente circondato, lo so bene, chiude l'ascoltatore, perché sono nato proprio lì, è una messa in scena. Nonostante le accuse dirette mosse dal presidente venezuelano Maduro contro Washington, poche ore fa Trump, mentre saliva sull'Air Force One, primo volo dall'inizio della pandemia, stava andando in Arizona, ha risposto velocemente ai giornalisti, sentite. I just got information on that, but whatever it is we'll let you know, but it has nothing to do with our government. Quell'operazione non ha niente a che fare col nostro governo. Ricordiamo una operazione con una serie di comando che sono sbarcati sulle coste, bloccati, arrestati e il loro passaporto esibito, anche due cittadini statunitensi, implicato Jordan Goodrow, contractor americano, ex berretto verde, ha negato tutto, ma poi ha parlato dicendo: attenzione, la missione era stata progettata per catturare, non per uccidere Maduro. E indovinate chi era il committente di questa delicatissima operazione militare? Niente meno che Juan Guaidó, però con un budget ridotto. Così Goodrow, Jordan Goodrow, si lamenta del fatto di non essere stato pagato dallo stesso committente, il quale, Guaidó, ha negato di aver avuto qualsiasi tipo di rapporto con Jordan Goodrow. Ricordiamo che Guaidó poco più di un anno fa si era autoproclamato presidente ad interim del Venezuela, sostenuto dalla maggior parte della comunità internazionale e ingaggiando un vero e proprio braccio di ferro politico con Nicolás Maduro, che invece resiste, appoggiato dai militari, col sostegno della Cina, della Russia e dalla maggior parte delle istituzioni statali, fatto salvo forse la magistratura, visto l'innumerevole quantità di magistrati che sono finiti dietro le sbarre. Un ascoltatore: ma davvero ci stiamo ponendo dei dubbi su quale lato schierarsi nella guerra tra Stati Uniti e Cina? Arriveremo anche a questo punto, ma diciamo che questo programma non inviterà a schierarvi, ma semplicemente cercare di fotografare non soltanto quello che sta accadendo in questi mesi incredibili di Covid-19 che sta mettendo a nudo tutte le più grandi e delicate dinamiche internazionali, ma cosa accadrà nei prossimi 5, 10, 15 anni. Allora lì sì, forse che alcuni stati dovranno schierarsi, dovranno capire da che parte farsi tirare per la giacchetta. Fatemi però, prima di entrare in questo tema così delicato, raccontare di quello che è accaduto in Libia, perché proprio ieri, nelle ore in cui andavamo in onda, è stato sferrato da parte delle forze di Fayez al-Sarraj, governo nazionale di Tripoli, riconosciuto dalla comunità internazionale, un attacco alla base aerea di Al-Watiya, siamo nell'ovest della Libia, controllata per il momento dagli uomini di Haftar. Sarebbe l'ultima residuo di resistenza tra Tripoli e la zona ovest proprio degli uomini di Haftar. Secondo Libia Observer la base praticamente sarebbe caduta e l'ultima roccaforte sarebbe stato l'ultima una medaglia sostanzialmente che che si stanno appuntando i militari sotto la guida di Sarraj, che stanno conducendo un'importante controoffensiva. Però dall'altra parte si dice che nemmeno l'attacco è avvenuto. Spulciando sui social si trovano effettivamente delle immagini di Al-Watia, difficilissimo verificarne l'autenticità, però ricordiamo che Libya Observer è un quotidiano online particolarmente ben informato, con tante fonti sul terreno. Vedremo nelle prossime ore se sarà confermata quella che è un'importantissima notizia. L'ultimissimo nostro dossier internazionale, Kashmir. È un po' che non ne parliamo. Una agenzia battuta poche ore fa, l'esercito indiano, con un'operazione iniziata ieri con centinaia di soldati, ha ucciso Hizbul Mujahideen Riaz Naiko, comandante del più grande gruppo separatista che combatte Delhi rispetto al controllo della regione dell'Himalaya. Quello che è importante, al di là del, come dire, del peso massimo che è stato decapitato di questa organizzazione separatista, è utile ricordare che c'era anche una taglia piuttosto cospicua, 1.200.000 rupie, e questo rientra nel solco di un consolidamento delle operazioni antiterrorismo da parte di Delhi. Ricordate, il Kashmir è tuttora sostanzialmente chiuso sotto lockdown, difficilissimo raccontarlo. E a proposito, difficilissimo raccontarlo, c'è qualcuno che ci è riuscito molto molto bene, per quello ha vinto il premio Pulitzer. Sono tre fotografi della Associated Press. Se guardate su Al Jazeera, viene dato sul sito di Al Jazeera, viene dato grande risalto a questa notizia. C'è una formidabile, drammaticissima foto, in particolare di Dar Yasin, che mostra un combattente che assalta con una pietra un veicolo blindato della polizia di Delhi. I tre fotografi Kashmir a cui faccio riferimento, Dar Yasin, Mukhtar Khan e Chani Adnan, hanno trovato il modo di violare il lockdown, il coprifuoco, l'embargo di notizie, internet che era buttata giù, per raccontare quello che sta accadendo in Kashmir. E ci dà la spinta, evidentemente, anche se volete emotiva, con questo premio, per continuare a trovare, a tenere accesi i riflettori su questa controversa regione. Bene, Filippo Reggi, questi i nostri dossier internazionali, e adesso che facciamo? Come sapete, i cinesi dicono che a diffondere il virus sono stati i soldati americani, e io questo non lo posso permettere, non finché sarò presidente. È un virus cinese. Angry at China. Se ce l'ho con la Cina? Beh, direi di sì, ma occorre verificare se la diffusione del virus è il risultato di un errore o se l'hanno fatto deliberatamente. Il virus poteva essere contenuto. La Cina è un paese all'avanguardia. Non sono riusciti a contenerlo o non hanno voluto contenerlo. I politici americani ignorano i fatti e dicono cose senza senso. Lo scopo è quello di spostare l'attenzione pubblica dalla loro incapacità di gestire la pandemia. È una mossa destinata a fallire. Nonostante gli Stati Uniti continuino a mettere in cattiva luce la Cina, non potranno nascondere il duro lavoro che abbiamo fatto nella lotta al virus, né questo atteggiamento darà loro giovamento. Consigliamo ai politici americani di concentrarsi sui loro problemi e di fare del loro meglio per contenere l'epidemia, anziché continuare a denigrare la Cina. E così, in 120 secondi, con debite venature metal e di contrapposizione, abbiamo provato a raccontare questo braccio di ferro che fa ripiombare le relazioni tra Stati Uniti e Cina, complice il mistero, lo diciamo tra virgolette, mille virgolette, del virus Covid-19 emerso, scappato, fuggito, scegliete voi il termine più adatto, dal laboratorio Wuhan, insomma fa ripiombare quelle relazioni a una temperatura così bassa che non si vedeva forse da piazza Tiananmen. Buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano, Paolo Magri, direttore di ISPI. Ciao direttore. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, direttore Magri, in questi 120 secondi di racconto, al di là delle voci dei vertici cinesi, abbiamo sentito un Trump che sfida apertamente la Cina col solito lessico a cui ci ha abituati. Si ha la sensazione che sia una sfida molto personalistica. Questo scontro Stati Uniti-Cina è saldamente legato alla personalità di Trump? Se non ci fosse Trump, saremmo arrivati a questo punto, secondo te? Non sarebbe diverso, non sarebbe molto diverso, ma è innegabile che Trump, con i suoi toni, i suoi atteggiamenti, lo renda più complicato. Non sarebbe diverso perché la sfida è una sfida epocale, quella tra Cina e gli Stati Uniti, il secolo americano, quello che è appena finito, il secolo asiatico, se ne parla forse un po' anche a sproposito, quello che è iniziato. È una sfida economica, tecnologica, di egemonia. E quindi questo rimane, è iniziato prima di Trump, sì, ma non dopo Trump. Trump, che rappresenta l'opposto dei toni felpati asiatici, della cultura asiatica, come sì, Brasile, ci mette del suo. Il coronavirus ci mette a sua volta del suo. Sì. La Cina ha cercato di presentare una narrativa vincente, che usciva vincitrice come modello da questa vicenda. Trump non accetta di essere messo nella narrativa degli sconfitti, e qualche sconfitta c'è, e quindi è partito una portata di attacchi reciproci che sfiora il surreale. Allora, direttore di ISPI, Paolo Magri, proviamo a ristabilire la connessione perché la linea non ci sta soccorrendo. In questo momento intanto io do conto agli ascoltatori di quelle che un po' sono le reazioni che arrivano al 349-238-6666. Qualcuno scrive, ma davvero pensiamo ci sia una contrapposizione? Sono solo schermaglie per dividersi gli interessi in giro per il globo. Qualcun altro, attenzione, è la fine del messaggio. L'inizio recita, l'imperialismo americano lo conosciamo da anni, quello cinese non ancora. Auguriamoci vinca l'America, ovviamente, se non fosse per il fatto che, per quanto si possa odiare Donald Trump, gli Stati Uniti sono una democrazia, la Cina no. E poi una disamina molto lunga che non posso in questo momento riferirvi per motivi di tempo. Claudio da Verona si concentra su quello che è il Covid-19. Il Covid-19 è un po' il casus belli e quello che sta facendo emergere con quel mistero che avvolge il laboratorio di Wuhan, queste che sono tensioni, come ci raccontava Paolo Magri, direttore di ISPI, attento osservatore di tutte quelle che sono le grandi dinamiche internazionali, datate certamente a molto prima di Donald Trump. Devo anche ricordare che dopo le parole di Trump e Pompeo, altre fonti dell'intelligence del famoso network Five Eyes sono state sentite sia dalla CNN che il Guardian e hanno smentito che il famoso dossier contenga prove sull'origine del virus da laboratorio. La possibilità che il virus arrivi dal laboratorio viene indicata come altamente improbabile. Queste sono le testuali parole, però al di là di questo non vogliamo fare speculazione pura su quello che speriamo sia un mistero che si risolverà in fretta. Come dicevo, il Covid-19 sta accelerando o sta facendo emergere in maniera più evidente quella che è la tensione dei rapporti che vi sono fra Stati Uniti e Cina. Vediamo se abbiamo recuperato il collegamento col direttore Magri. Paolo, vediamo se adesso va meglio. Eccoci qua. Allora, qualcuno ci ostacola perché succede sempre solo con te. Non so se è il soggetto o se... Però è la terza volta che ci succede, il telefono lo uso tutti i giorni. Guarda, per fare una battuta cerchio bottista come al solito, potrebbe essere la CIA o potrebbero essere i servizi segreti cinesi a questo punto. Quindi, o tutti e due insieme, che sarebbe l'ipotesi migliore. Paolo Magri, abbiamo provato a fotografare quelli che sono i numeri tra Stati Uniti e Cina. Immaginiamo due pesi massimi, forse uno un po' più massimo dell'altro, perdonate, è quasi uno scivolone di grammatica, sentite. Nonostante la simile estensione territoriale, la Cina ospita 1 miliardo e 400 milioni di abitanti, mentre gli Stati Uniti appena 330 milioni. Il PIL nominale cinese nel 2019 ammontava a 14 mila miliardi di dollari, secondo solo a quello statunitense, pari a 21 mila miliardi di dollari. Ciò nonostante, negli ultimi anni Pechino ha goduto di una crescita media del PIL pari a circa il 7%, mentre Washington solo dell'1,7. Rispetto alla bilancia commerciale, il dragone domina l'aquila con un surplus di 345 miliardi di dollari. In ambito militare è una sfida al vertice. Nell'anno passato Washington ha investito 732 miliardi di dollari in armamenti, mentre Pechino 262 miliardi. La Cina però vanta 2.300.000 forze armate attive contro 1.500.000 degli Stati Uniti, che però sovrastano il competitor asiatico rispetto alla potenza nucleare, 8.000 testate contro 240. Il confronto si consuma anche dentro il Palazzo di Vetro, dato che la Cina, contribuendo per il 12% al budget totale delle Nazioni Unite, è seconda solo a Washington, che con il 22% è il maggior contribuente storico dell'ONU. Gli Stati Uniti dominano ancora in campo accademico, con 32 atenei tra i 300 migliori al mondo. La Cina ne conta solo 3. Emblematico è invece l'indice di sviluppo umano, che vede il paese a stelle e strisce in caduta libera, ma ancora al 15° posto della classifica mondiale, mentre il dragone, nonostante occupi l'85esima posizione, è negli ultimi anni in costante ascesa. Questa è la fotografia di chi si sta confrontando in questo momento. Direttore Paolo Magri, abbiamo provato a utilizzare la metafora, insomma, della guerra fredda. I rapporti, forse da Piazza Tiananmen, non sono così logori. Si rischia una guerra globale su tutti quei terreni, quei quadranti, non solo geografici, che abbiamo nominato prima, o sei ottimista da questo punto di vista? Insomma, la guerra globale è uno scenario un po' cupo, in un momento già cupo, e il quadro che avete descritto adesso per il confronto sembrava quei quadri che si fanno quando appunto si è sull'orlo di una guerra e si vede chi può vincere, chi può perdere. Andiamo sui dati di fatto. C'è una guerra commerciale che è in corso da tempo con una tregua, e ora rischia di ripartire la guerra commerciale, perché Trump ha già detto che il coronavirus tutto cambia. C'è una guerra di propaganda pesantemente in corso, c'è una guerra di competizione economica e tecnologica chiaramente in corso. Una guerra globale anche no, al limite una versione rivista e corretta di guerra fredda, cioè quando si parla di compartimentare il commercio e le economie, si crea un modello chiuso a tendere come quello che c'era con l'Unione Sovietica, ma siamo molto lontani, però i toni sono un po' quelli. Sì. Intanto al 349-238-6666 la maggior parte degli ascoltatori in questa nostra provocazione, evidentemente guerra globale, guerra fredda, invece Paolo Magri, direttore di ISPI, accoglie meglio questa etichetta per fotografare quello che sta accadendo. Molti ascoltatori tornano sul tema, qualcuno sussurra addirittura potrebbe essere il Covid-19 addirittura responsabilità americana per creare caos e dal caos far emergere un nuovo imperialismo. Però Paolo Magri, ecco, questo tema, come dire, del complotto sul Covid-19 è francamente molto molto diffuso e anche molto inquietante, è difficile, no? Anche per chi fa analisi, ma anche per noi narratori, ricondurre il tutto ai fatti, magari quei pochi che si conoscono. Quanti errori commettiamo noi giornalisti, Paolo Magri? Sono pronto a farmi bacchettare su questa questione del Covid-19? No, io penso che gli errori che facciamo tutti, anche i giornalisti, qui non è il momento di dire chi fa gli errori, ma il tema è che si presta una pestilenza dei nostri giorni, si presta a tutti i complotti di questo mondo, e abbiamo visto tentativi di ispirare il complotto sia da parte cinese, quando si è fatto anche uno dei portavoci del ministro degli esteri all'esercito americano che aveva portato il coronavirus, e poi Trump con il famoso laboratorio di Wuhan. Bisogna stare i fatti poi li abbiamo noi tutti, se qualcuno ne ha diversi di presenti la comunità internazionale, dicono oggi che il virus si trasmette da animale a uomo, che quindi il laboratorio di Wuhan non c'entra molto, è difficile pensare che la Cina si implica un lockdown fermo macchina che blocca l'economia, che rischia di mettere a repentaglio progetti importanti come la Via della Seta e altro per far del male agli altri. È un po' la logica, e ad oggi, dati che abbiamo, la scienza si dicono che non è così. Nell'esercito americano, nel laboratorio di Wuhan. Ad oggi, quando ci siamo. Paolo Magri, un'ultima risposta a slogan, se ti è possibile, così poi andiamo a sentire come vanno le borse. La Via della Seta è in crisi, lo ascolteremo tra poco, proprio per il lockdown che sta legando le mani e i piedi dell'economia mondiale. Se fallisse o ritardasse troppo quel progetto, sarebbe una crisi di leadership per Xi Jinping e la Cina intera? Hanno tanto investito su questo progetto. Era il simbolo del secolo asiatico, per stare sugli slogan. È chiaro che, pur essendo in crisi, ma ammaccato, perché ovviamente in questo momento è difficile, la leadership del Partito Comunista farà di tutto per portarlo avanti, magari con, anche menzionato con una narrativa che ce lo presenterà come uguale prima. Ma è il simbolo, e su questo, sui simboli, si lavora fortemente. Sì. È sicuramente ammaccato. Grazie mille Paolo Magri, come sempre, per accogliere quelle che sono le mie suggestioni metaforiche e rilanciarle decisamente di migliore fattura. Paolo Magri, lo ricordo, direttore di ISPI, buona giornata e buon lavoro Paolo. Adesso Filippo, facciamo una piccola pausa, andiamo a vedere come vanno le borse, andiamo a sentire come vanno le borse e poi la seconda pagina di Nessun Logo. Nessun Luogo, Nessun Luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori in questa puntata di Nessun Luogo Lontano. Torniamo su quelle tesissime relazioni tra Stati Uniti e Cina. Stiamo cercando di sfregare la sfera di cristallo, capire su quali quadranti, anche geografici, ma non solo, avverrà la grande competizione per l'egemonia globale. Su alcuni di essi sta già avvenendo, l'high tech per esempio, la propaganda e la narrativa, lo stiamo vedendo con la querelle del Covid-19. Alcuni quadranti saranno caldi, particolarmente caldi, l'America Latina, l'Africa. E qualcuno scrive, ma non solo, sto pensando alla Groenlandia, grazie a un sms di un ascoltatore che scrive, è vero che la maggior parte delle terre rare si trova in Cina, almeno il 90%, dovrebbe essere l'80%, ma ve n'è una sostanziosa presenza anche in Groenlandia, e questo spiega come, lo raccontammo qualche mese fa, gli appetiti di Pechino e Washington si stiano scontrando anche in Groenlandia. Messaggi che arrivano anche dall'estero, da Ginevra, Adriana. In riferimento a Stati Uniti-Cina, coronavirus, perché in quanto europea mi sento come un vaso di coccio in mezzo a tanti vasi in ferro, e così ci lanciamo su metafore sempre diverse, ma la sostanza è quella: in quanto europei non abbiamo certamente l'arsenale economico e soprattutto geopolitico che possono avere sia Cina che Stati Uniti in misura diversa. Abbiamo citato la Via della Seta, ne parlavamo con Paolo Magri, direttore di ISPI. È il progetto per la Cina, è la grande ambizione, unire il mondo con la più grande rete infrastrutturale mai progettata. Però adesso c'è un problema, tanto che quella Via della Seta potrebbe diventare una viuzza. Facciamo un passo indietro. La Belt and Road Initiative, o Nuova Via della Seta, è stata lanciata dal presidente Xi Jinping nel 2013. Si tratta di un gigantesco progetto che mira a incrementare la connettività commerciale, infrastrutturale e finanziaria tra Asia ed Europa. Un progetto titanico, sostenuto da un piano di investimenti da centinaia di migliaia di dollari, che al suo picco comprenderà 6 corridoi commerciali, marittimi e terrestri, attraverso 68 paesi, tra Asia, Europa, Oceania e Nord Africa. Due le direttrici principali. Una continentale, che dalla Cina raggiunge l'Europa attraverso l'Asia centrale e il Medio Oriente, e una marittima, che attraversa l'Oceano Indiano per sfociare nel Mediterraneo. La realizzazione di questo ambizioso progetto prevede la costruzione, l'ammodernamento e il potenziamento di infrastrutture come porti, reti ferroviarie ad alta velocità, strade e hub logistici nei vari paesi attraversati dalla nuova Via della Seta. Ma l'epidemia di Covid-19 sta provocando ritardi e interruzioni in diversi cantieri in Indonesia, Cambogia, Malesia, Sri Lanka e Pakistan. I lavori, infatti, dipendono in larga misura da manodopera e materiali cinesi che non possono più muoversi liberamente. Ma c'è un altro aspetto che alcune nazioni stanno enfatizzando. L'epidemia rischia di aggravare la cosiddetta trappola del debito in quei paesi che, per realizzare le infrastrutture necessarie al progetto, hanno dovuto prendere in prestito da Pechino enormi somme di denaro. Pechino ha sempre rispedito le accuse al mittente, sostenendo che l'instabilità finanziaria del progetto andrebbe contro gli stessi interessi cinesi. E con la fotografia della Via della Seta messa in crisi dal Covid-19 andiamo da Simone Pieranni, caporedattore esteri del Manifesto. Ciao Simone, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Tra pochi giorni in uscita con un libro che vi preannuncio è interessantissimo, consigli non richiesti, leggetelo. Perché? Perché va a trattare un tema molto molto importante, verticale se volete, va a indagare tra le pieghe di quella che è il potere di Pechino, si chiama Red Mirror, il futuro si scrive in Cina. Quanto l'alta tecnologia, l'intelligenza artificiale, i big data, il 5G possano essere una formidabile leva per costruire una nuova egemonia mondiale. Così Simone Pieranni, la Cina punta soprattutto su quello. Sì, la Cina che noi abbiamo conosciuto nel corso degli ultimi anni e che abbiamo, di cui abbiamo visto la crescita, il cosiddetto miracolo cinese, è dipeso quasi interamente dalla cosiddetta fabbrica del mondo, no? Cioè il fatto che la Cina ha prodotto a bassissimi costi e con bassissimi salari per i lavoratori per i nostri mercati, praticamente per i mercati occidentali. La crisi del 2008 e quindi il calo degli ordini dall'Occidente soprattutto hanno portato Pechino a cambiare il proprio modello di fatto proprio di sviluppo, puntando moltissimo sull'innovazione e sulla tecnologia, oltre che sul mercato interno per quanto riguarda appunto la propria economia. Sì. Questo naturalmente è stato poi suggellato da un progetto che si chiama Made in China 2025, che prevede proprio la trasformazione praticamente di impianto produttivo cinese e la volontà di cominciare a esportare proprio tecnologia di alto livello, quindi anche inserirsi in una catena del valore, in una filiera dove si guadagna anche di più. E naturalmente però ci si va a scontrare con la principale potenza economica in termini tecnologici, che è quella degli Stati Uniti. Quindi apre di fatto un nuovo quadrante, non so come dire, quale le due potenze si confrontano ormai da molto tempo, in cui rientrano i dazi, rientrano gli scontri diplomatici, rientrano le questioni legate al Mar Cinese meridionale, rientrano le questioni di Taiwan. Tutto sembra essere una sorta di sottotesto di questo scontro tecnologico che vede poi nel 5G e nello scontro che c'è stato sull'azienda cinese Huawei la punta di diamante praticamente. Dalle tue parole, ma soprattutto dal titolo del libro, ricordo, in uscita il 14 maggio per la terza, Red Mirror, il futuro si scrive in Cina, c'è una chiara allusione a quella che è anche una celebre serie dove molto spesso si raccontava un futuro distopico, si raccontava di controllo sociale, di una forma evoluta di ingegneria sociale nella quale evidentemente Pechino è maestra. Ecco, l'alta tecnologia permette il tracciamento degli individui, lo sappiamo ormai tutti grazie a quello che sta accadendo in tutto il mondo con Covid-19. Quali sono i rischi? Non tanto per la Cina, perché è una società forse che non potrà dire di no a questa tendenza, ma i rischi mondiali, Simone Pieranni? Ma allora, il titolo nasce naturalmente con riferimento alla serie britannica, poi americana, Black Mirror, ma più in generale nasce dal fatto che quando mi capitava di discutere dei crediti sociali, di tutta questa immane apparato tecnologico, tutti facevano riferimento a Black Mirror e tutti dicevano distopia. Secondo me invece la Cina è più uno specchio una sorta di nostro specchio, di quello che temiamo possa succedere anche da noi. E mentre scrivevo il libro avevo quasi il timore di azzardare un po' troppo sul fatto che quello che accadeva in Cina effettivamente già influenzava l'Occidente, ma molte cose ancora non stavano accadendo in realtà. Il Covid ha accelerato in maniera veramente incredibile tutto, perché se noi pensiamo a uno dei dibattiti principali che abbiamo fatto anche in Italia, ma non solo in Italia, in Europa in generale e non solo, sulla questione ad esempio del contact tracing, cioè di un'applicazione che possa tracciare, o comunque sulla possibilità che uno Stato, un governo possa avere i dati, praticamente gli spostamenti di tutte le persone, al di là che poi siano utilizzati per questioni sanitarie o meno, ci porta di fatto su un sentiero che è quello. Naturalmente noi possiamo sviare un po' più facilmente di quanto possano i cittadini cinesi. E poi c'è un secondo aspetto, cioè che a mio avviso ci sono delle tendenze autoritarie in giro nel mondo che guardano al modello cinese, e non parlo solo di Russia, di Orban, parlo anche di stati democratici. E purtroppo a mio avviso l'emergenza da Covid ha fatto constatare a molti, giustamente o meno, io non credo che sia giusto, che alcuni modelli, che sono poi quelli più autoritari, funzionano meglio per gestire tutta una serie di emergenze. Ricorderemo il dibattito sul cosiddetto modello cinese, la risposta cinese. Dobbiamo fare come hanno fatto in Cina. Peccato che esistano sistemi valoriali completamente diversi tra Cina e Occidente, e peccato che il sistema politico cinese consenta tutta una serie di cose che per fortuna da noi non sono consentiti. Quindi c'è una sorta di fascinazione, a mio avviso, per modelli autoritari che comunque sono autoritari ma non sono stati di polizia, perché in Cina non è che giri per strada e sei, certo, come dire, sottoposto, certo, a una sorta di regime che ti controlla oppure che ti sanziona continuamente. Però naturalmente i meccanismi decisionali non sono assolutamente di natura democratica, e questo, siccome per molti governanti, è una prospettiva che non è poi così negativa. Se ci aggiungiamo la possibilità di avere anche tutti i dati di tutti i cittadini, capiamo bene che al di là di quelli che possono essere la dialettica con la società civile, con l'opinione pubblica, è, come dire, un sentimento che qualcuno potrebbe accarezzare, e allora a quel punto dipende pure da chi ci starà al potere. Sì, avete sentito la voce di Simone Pieranni, capo redattore esteri del Manifesto, tra pochissimo in uscita. Non potremo, credo, stringerci la mano, direi proprio no, il 14 maggio, mancano pochi giorni, però virtualmente assisteremo a quelle che saranno le tue presentazioni. Red Mirror, il futuro, si scrive in Cina, la terza, un viaggio in una, come dire, un quadrante un po' insolito, che però ci permetterà di capire se e quanto questo strano modello cinese, da alcuni invocato come virtuoso, possa funzionare, possa traslarsi anche nel resto del mondo occidentale. Grazie mille Simone Pieranni per essere stato con noi, buona giornata, buon lavoro. Noi andiamo subito sulle strade italiane, poi l'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Una nuova guerra fredda, questo è forse lo scenario più plausibile. I rapporti, le relazioni tra Stati Uniti e Cina mai sono state così fredde, forse dai tempi di piazza Tiananmen. Il Covid-19, grande acceleratore, il mistero, il giallo sul virus di Wuhan. Intanto le agenzie battono una breaking, gli Stati Uniti hanno in mano prove significative che il coronavirus venga da un laboratorio di Wuhan, ma non hanno ancora certezze. Lo ha detto il segretario di Stato statunitense Mike Pompeo, così l'ANSA lo riporta, e francamente mi sembra una dichiarazione che, e lo dico da giornalista, da cronista, scricchiola parecchio. Non puoi avere prove significative ma non hai ancora certezze, insomma, ancora ambiguità. Trump aveva promesso che avrebbe sciolto i dubbi, ma ripeto, questo è il casus belli per noi dal punto di vista della narrazione del giornalismo, per andare a indagare come saranno anche in futuro le relazioni tra Stati Uniti e Cina. 349-238-6666, gli ascoltatori. È evidente che purtroppo il futuro si scriverà in Cina, perché per nostre mancanze ci siamo consegnati mani e piedi alle loro produzioni, sia industriali che tecnologiche. Sono tanti i quadranti sui quali Stati Uniti e Cina si confrontano, non c'è soltanto la tecnologia, c'è anche l'ideologia, c'è il modello di società, e poi ci sono i quadranti strettamente geografici. L'Africa, molto poco raccontata, l'America Latina, il Mar Cinese Meridionale, il Medio Oriente e l'America Latina, appunto, di cui parlavamo proprio ieri raccontando del caso venezuelano. Buongiorno e benvenuta nel suo luogo lontano anche Alessandro Areso, che è il direttore scientifico della Scuola di Politica, autore del libro Le potenze del capitalismo politico, Stati Uniti e Cina, la nave di Teseo. Direttore, buongiorno, benvenuto. Salve, salve, grazie mille. Allora, direttore, lei introduce anche un lessico nuovo, perché capitalismo politico è qualcosa che cattura immediatamente l'attenzione e ci intriga. Ci spiega brevemente come questa nuova categoria logica può spiegare quello che sta accadendo tra Washington e Pechino? Allora, la categoria l'ho presa da un grande studioso, Max Weber, è attualizzata al confronto tra gli Stati Uniti e la Cina. La categoria descrive la compenetrazione dell'economia e della politica, che avviene, a mio avviso, in entrambi i sistemi, soprattutto per quanto riguarda l'uso politico del commercio e della finanza, l'uso della tecnologia e il giudizio dell'economia sulla base della sicurezza nazionale. Quindi entrambe queste potenze sono delle potenze del capitalismo politico, ma i titolari di queste decisioni e dei rapporti tra l'economia e la politica che intercorrono nelle due potenze sono diverse. In breve, negli Stati Uniti è la più importante burocrazia militare del mondo, l'apparato militare di sicurezza degli Stati Uniti, mentre nella seconda potenza chiaramente il Partito Comunista Cinese. La voce che state ascoltando è quella di Alessandro Aresu, il direttore scientifico della Scuola di Politiche. Ricordo anche il suo testo, Le potenze del capitalismo politico, Stati Uniti e Cina, editore La nave di Teseo. Questo libro e il pensiero di Alessandro Aresu ci aiuta a inquadrare meglio, e tra pochissimo cercheremo anche di sfregare la sfera di cristallo per capire quale sarà il futuro di queste relazioni. Marcello, l'Italia farà un gemellaggio con la Cina, e così alcuni ascoltatori iniziano a suggerire anche con chi si dovrebbe schierare paesi che sono dei pesi piuma rispetto alle due grandi potenze. Io non so, direttore Aresu, se lei conosce l'arte della guerra. La raccontiamo, ma in maniera un po' diversa. Ascolti con noi. Quando la maggioranza delle persone si schiera a favore di un uso ridotto della forza militare per risolvere i conflitti, la guerra rinasce in un'altra forma e in un'altra arena. Un crollo dei mercati azionari causato dalle azioni di un singolo uomo, un crash delle reti informatiche, oppure uno scandalo che provoca la fluttuazione dei tassi di interesse della moneta della nazione nemica o che espone i leader della nazione nemica all'opinione pubblica, sono tutti fattori che possono essere inclusi nella categoria di nuove armi. Quando arriviamo a comprendere che tutte queste azioni non militari potrebbero costituire i nuovi fattori che definiranno in parte le guerre del futuro, arriviamo anche a definire un nuovo nome per questo nuovo tipo di guerra. È una guerra che trascende tutti i confini e tutti i limiti. Insomma, è guerra senza limiti. Quello che avete sentito è un estratto di Guerra senza limiti, un manuale di dottrina militare, è un po' datato in verità, è del 1999, però molto suggestivo, scritto, indovinate da chi? Due colonnelli dell'esercito popolare di liberazione cinese, Zhao Liang e Wang Shansue. Il testo è diventato un classico, non esprime evidentemente la posizione ufficiale dell'esercito cinese, però col senno di poi ha ispirato anche delle visioni e forse delle forme di frizione, di guerra fredda che ben si prestano a raccontare quello che sta accadendo da adesso tra Stati Uniti e Cina. C'è un aspetto però, e torno da Alessandro Aresu, che dirige il direttore scientifico della Scuola di Politiche. Quanto conta l'ideologia in questo scontro tra superpotenze? Ma io direi che rispetto all'immagine della guerra fredda che viene naturalmente utilizzata come riferimento, conta meno. Nella guerra fredda era naturalmente potente l'afflato ideologico statunitense sulla libertà, ma anche quello che gli storici hanno chiamato l'impero irresistibile, cioè l'impero irresistibile, la potenza dei consumi degli Stati Uniti. Un po' questa potenza anche nei prodotti mediatici viene incrinata in parte. Insomma, pensiamo a TikTok per esempio, che è un affare cinese, che i cinesi producono nella versione cinese e poi nella versione per il resto del mondo. L'ideologia cinese anch'essa non è tanto ben delineata, però secondo me è percepita dalla popolazione come l'efficientismo, ormai il sistema cinese come sistema efficiente, no? Dobbiamo liberarci di alcuni lacci e lacciuoli dei sistemi democratici, perché il sistema autoritario cinese garantisce l'efficienza. Questa è l'ideologia, diciamo la cappa ideologica che portano avanti e su cui fanno leva. Ancora diciamo non c'è la potenza dello scontro ideologico tra l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti, credo. Sì. Peraltro l'ospite che l'ha preceduto, direttore Aresu, Simone Pierani, capo redattore esteri del Manifesto, così risponde a alcuni ascoltatori che stigmatizzano e contestano la mia scelta. È incredibile che il direttore, scrivono, del Manifesto sia presente a Radio 24, ha toccato davvero il fondo, così un ascoltatore. Qualcun altro che evidentemente ha scritto un messaggio ma senza aver ascoltato nemmeno il programma, dice che Simone Pierani è filocomunista e parteggia per il Partito Comunista Cinese, e stava elogiando quella che era la gestione cinese del coronavirus, ma non è stato esattamente così. così ha detto che da più parti c'è stato un momento in cui la gestione del coronavirus da parte cinese è stata portata avanti come modello da tanti. Detto ciò, fatemi tornare da Alessandro Aresu, direttore scientifico della Scuola di Politiche. Siamo al clou forse della puntata, l'abbiamo tenuta un po' per ultima, grazie alle sue parole e agli altri ospiti stiamo capendo a che livelli è la competizione tra Washington e Pechino. In realtà le domande sono due, la prima, chi vincerà? Molto banale. La seconda, l'Europa o l'Italia, cioè pesi piuma rispetto a questi pesi massimi, che cosa dovranno fare? Gli Stati Uniti avranno la forza di tirare la giacchetta di italiani, francesi e spagnoli, oppure la Cina con quel fare felpato, come suggeriva Paolo Magri in apertura, riusciranno a insinuarsi e ci troveremo quella giacchetta di colore diverso senza neanche accorgercene? Beh, naturalmente nessuno ha la sfera di cristallo, la prima cosa che dobbiamo avere credo è un po' di cautela, perché quando si combatte un conflitto di questo genere, insomma sembra a volte che un mese stia vincendo l'uno, un mese stia vincendo l'altro, no? Bisogna sempre mantenere il punto di domanda, come c'era anche nella famosa copertina dell'Economist. Sì. Quello che si può dire è che lo scontro è strutturale, è sbagliato attribuirlo a Donald Trump. Perché il partito, diciamo, anticinese ormai è prevalente anche tra i democratici, quindi lo scontro continuerà ad essere particolarmente forte. Diciamo, gli Stati Uniti agiteranno una sorta di deglobalizzazione per disancorarsi dalla Cina, ma non è detto che questo favorisca i paesi occidentali. Per esempio potrebbero essere vincitori paesi di cui ora parliamo molto poco, come il Vietnam, che però è un protagonista importante di questo secolo e non è né filo americano né filo cinese. Io direi che gli Stati Uniti hanno tre frecce al loro arco, sì, molto importanti nel conflitto. In primis, come diceva lei, portarsi dietro l'Unione Europea attraverso delle politiche commerciali, un forte accordo commerciale come era stato il vecchio TTIP, sì, poi finito in secondo piano. Poi c'è il fatto che i vicini asiatici non amano particolarmente i cinesi, per usare un eufemismo, e quindi possono fare leva su questi paesi, naturalmente in primis Giappone e sì, Corea del Sud. E l'altro aspetto è la demografia, ovvero la Cina sta invecchiando e certo ha affrontato sfide economiche molto importanti negli ultimi decenni, però l'invecchiamento della popolazione, di una popolazione così vasta, è una sfida molto importante, mentre nel lungo termine gli Stati Uniti continuano ad essere una nazione relativamente giovane, quindi sì, io manterrei un po' di cautela, ma darei importanza a questi fattori strutturali per capire un po' dove andremo a cominciare. E grazie mille per averceli consegnati con questa chiarezza, con questa lucidità. Alessandro Aresu, direttore scientifico della Scuola di Politiche, autore del libro Le potenze del capitalismo politico, Stati Uniti e Cina, la nave di Teseo. Grazie mille Aresu, buona giornata e buon lavoro. Intanto Filippo Reggi scommetto che mi dice una cosa. E io ringrazio tutti voi che siete stati all'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo è Lontano. L'appuntamento è per domani ore 16. Intanto un saluto da Giampaolo Musumeci.